Capito, gufo! Camari! Dammi i tasci! Attento, e allora? Attento, Giovanni! Dammi i tasci! Attento, gufo! Dammi i tasci! Dammi i tasci! Dammi i tasci! Oh, tieni due sudato! Tanto! Non so come si brazzingheggia! Bellina, mi senti? Cosa vuoi? Ah, io sono qua. Là, là c'è freddo. Sì. E Luando? Non mi torcei. Mi vai vicino a pizzo tutti i gatti, mi esita. Non mi torcei. No, Marina è dormita. Io no. Sto guardando chi li mangiano. E chi li mangiano, grazie? Fa vedere un sacco di quegli uovi belli. Tutto il mondo. Un documentario, là. Ah, ho capito. Qui c'è anche quello di Appedoggio. Ehi, io. Morare piena di chi si rabbia uno. E la ricotta mustia e anche il porcetto con le patate. Dillo, grazie a Luca, dillo. Morale da succiatura, oh yeah! Saluti, mi posso pure giù a sparaggini. Mi raggio a preparare i libri pronti. Para cacciaruna, bella pe. E come te li fai? So che la caccia l'animale mangia la spada, mi ne ha regato una carriola. Io sono andato a farli stasera, la passeggiata, ma non ho già avuto. Ieri dovevi andare, non oggi. Oggi cosa? Oggi è la bella di. Ieri che è una bella giornata, se andavi già ne facci. Vedi, tenere bene, non ci ho buttato niente, in genere il tronchetto molte volte un pezzo in giro. Chi ci pizza il tronco e la tena, teneri bene, buoni. Ho capito. Quindi usi, io sono uscito per essere trovato qua un po', facciamo un po' di pasta domani, invece niente, domani pasta e carciofi e panna. E lui andò. Che è buono anche così, no, siccome la notte che me li ho messi nel pozzetto gli altri, anche se l'ho lasciati due giorni a bagno, belli, dritti, dritti, però dritti, io non posso mangiare, se fraspara, che me li ho conservati nel pozzetto. Ho capito. Tre mazze che è quello, sta parlando. Oh, yeah. Luca, grazie, mangiate, spegliate. E allora, ha giocato il sughetto a pranzo e le bavette. Oh, yeah. Oh, yeah, di la verità, e le penso piene, abituate so piene. No, finita. Chi è? Io. Avanti. Chi è? Buona rete dei bavetti, Luca! Ok, devo fare il canale. E Ludando! A te, Tagufo! Così, non mi tocca! Mi sto guardando le boliviane! Hello, babe! Cosa stai guardando? Le boliviane! Cattone animato! Ah! Cattone animato! No, donne indiane, boliviane! Quelle tipo... Tipo quasi si vicinano i cannibali nelle isole! finito, è finito, adesso lo spengo. Capito mi hai? E dove? È finito il programma, alza adesso. Si mangia la retre. Ma per chi lo siete? No, io non questo è importante. Chi stava parlando lì? Qua! Se da adesso nessuno, tu, Luca poco qua, io e Luca, e poi no, non ci sembra nessuno. Luca! Io! Tutti hanno mangiato un bene, hai capito? E allora sono una pasta piena! E tutti dormono! Capito che hai! Un po' di città, forse anche la Sardegna ha fatto vedere, che è città bello davvero, nel Sulcisi la miniera che c'ha il porto a mare, in Arruccia, mai vi sei andato? No. Capita, dal mare arrivavi con la nave e la rocca aveva l'apertura e caricavano le navi di materiali di argento, la terra, i briti, caricavano le navi che poi lo portavano con le navi in altri posti per pulirlo, per ricavare l'argento. Ecco un prisma. Beh, fa di là. Ma in antichità ha fatto vedere, lo trasportava a Cotumi da sottoterra. Poi piano piano col tempo si hanno inventato le rotaie, hanno fatto il modo per salirlo dall'interno della montagna. Travagliavano i femmini, uomini e bambini, tutti, che voglia mangiare via travagliare la miniera. Ho capito. Vabbè, prima ho bei tempi. Prima te lo sudavi un pezzo di pane, una batata. Oggi se lo rampali, a chi non è troppo. Una batata di chi sul tempo ve l'ha avuto. Ho bagnetti che ti cuoio, a prendere la città tua, la fantasia. Sì. Allora, ci vuoi mangiare, ti vuoi cavare sotto terra e portare su. Forse Luca Flippo. Allora, oramai da quando fa le complicature Luca Flippo è diventato impresario, ti credi che... che non è furbetto. Rotto, Ma con l'attac ha riparato. Diglielo tu, Gufo, Luca. Per carità. E quindi andiamo a farci la villa. La dite rubatemi, la villa vicino alla cona. E se la dici, la fatemi una cosa. D'altronde, facci bene. E mi ha detto che ho una mano a fare lo trasloco. E dai, era una mano, no? Poi complicherà anche a te dopo. La gobba mi cubica. Fa un po' come esce la gobba, altro che... Secondo me Johnny Maria ha mangiato troppo ed è ancora sul ranghetto, cosa gli dici? Bravo, così me ne vado a casa. Sono appena risuito. Perché mamma ha cenato, deve farci dare un pari osoglio, lo devo preparare. Allora vai, se ti devi preparare l'aria solo. Anche io un po' di tosse già ce l'ho, per morire ma pensi, ci sarà anche da vendere al sole, oggi niente, già sembra sta ripigliando piano piano. Boh, mai chi su detto. Mamma non esce, capito? Non ti ha messo il bacco nella fulminata. Anche a mia moglie l'ha pizzicata, ma se si mette la corrente in casa, amico, da dici? Bisogna lasciare a te, da voi, tu periodo, un bell'occhio, Marzo e Passarello. Allora, Marzo e Passarello, apri l'ombrello e apri l'ombrello. E allora, io sono con di Marzo, dunque, ti non puoi immaginare, forse arrigati il burro a nevi, non è giusto. Puoi arrigarmi la legna? La neve! Ah, sono compreso la legna. Su, sei pelle e tembesio. Quando sono curato io, ne varete a fatto. Nel passato 56, è una diggia. Manco il progetto ero allora io. Ero già progettato. A papà quando travagliava la buon'anima, l'hanno fatto cavaliere di Braghetta. Che ti piglio di senti? Oh, ma prima non veniva la televisione, capito? Ma papà va a femmina, pure con chi sta, non so quanti figliori va. Ma si casa ancora? No, è morto, dopo tanti anni che è morta mamma. Mamma è morta giovane, 52 anni. Ed era malata come te so cui, precisa. Prima non finire i medicini, mi sovava. Già c'era, ma non era come adesso, per dire l'insulina va, va la penna. Quando la batte a mamma va via, andate via i calzini, in chissà cosa, in alluminio che va via, glielo faccio anche io. La siringa, la dopo i bolliti, bolliti si fatterla così. Poi prendere l'insulina dalla bottiglietta, secondo quanto ne dovevi fare, noi la usino, era un casino prima. Lo so, quelle siringhe in alluminio? C'aveva un coso dove all'interno c'era, era un completo, dove all'interno c'era la siringa, l'ago era sempre sotto. Tu lì dovevi mettere un po' d'acqua e metterlo sul fuoco a bollire e facevi bollire un po' la siringa per disinfettarla. Tutte le volte devi fare l'insulina perché era sempre la stessa siringa e la stessa acqua, capito? E poi era bollito, quando si raffreddava dalla bottiglietta aspiravi l'insulina che dovevi fare, che ci avevi prescritta, e ti fate l'insulina così. Ho capito. Vabbè, già c'è tutto, dai. Ci sono, come si dice, c'è tutta la tecnologia adesso. Prima non erano così, prima c'era tutto, le macchinari, sì, cosa hai, cosa non hai. Prima non era così. E anche moriamo bene i biglietti, per quel motivo, perché un biglietto magari non ve la buona, non se ne va di aromatezzi e crepava. Da ve la buona, non si sapeva come ti va, eccetera, e moriamo i aromatezzi. Poi la gente prima noi la mettevamo, prima c'era un bel di gente, bravi lavoratori, però a livello di contagine finirà un bel. Lo so, sì. Vabbè, adesso già ci sono quelli che studiano, capito? Ma adesso c'hai gli aghi, lo usi e ce lo butti, vai la penna, vai giusto, vai. Però fai, lo usi e lo butti. Mica lo devi buttare, fai, intendo, capito? Magari pure un biglietto, ma non buttino. Ma con i bugia se la trattava sempre così. E pigliava l'infezione, eccetera, eccetera, no? Infatti. te faccio la punta su, come ti sei detto che si usa quello? E a chi scemo su? Ogni puntura del rabo, cazzo, fidati! La cosa me ne passa una fa, fatti in mille arribati. No, ragazzi, matto. E l'ago per pugnare quanto ottieni, grazie. Ogni volta che mi pungo ce l'ho butto, ne ho. Non è sempre che ti pungi per controllarti la glicemia. Un paio di lì non me ne controllo, o se me la controllo una volta, le altre tre volte non me la controllo. E perché oramai so come mi sento, secondo come mi sento, se mi sento un po' strano, me la controllo, capito? Mamma mia, controllo due volte al giorno, tipo colazione e pranzo, oppure colazione e cena, oppure pranzo e cena, o cena e dopo l'ultima, dai, diciamo la notte. No, io me la devo controllare quattro volte al giorno, così mi ha scritto, e così le devo disegnare un libretto, poi devo porti il libretto, no? E lui controllava il libretto, e quattro volte. E infatti l'ultima volta l'ha detto, ma mica le mani sono le mie, le dita sono le mie, me. Cazzo quattro volte, non ho capito. Invece facciamo come dico io, là. Secondo come mi sento me la misuro, secondo come, come mi sento me la misuro. Poi facevo un addio, quattro volte le dita mangio di stampa. E infatti l'ha detto, e guardi come ho le mani, non ho capito. Ho visto la mia vicina. E lo so, e come fai da allora? E a oggi forse. Così l'ha giunto. Fa male, mamma si lamentava infatti. Ma ti va giù di mano, tutti i di viola va giù. Mica a me mi fa dei mali, mi cosa ti credi? Bucagna gli altri di ciambiti. E la cultura non è che basta oggi al domani. Io la sto facendo nelle gambe, una già mi alterno, no, una volta a destra, una volta a sinistra, capito? L'insulina me la faccio, una in braccio a destra o a sinistra, o la goccia, o la manza, me la faccio la manza, tu gli fai invece di un libido, viola in panza. Ci sono certi punti che mi fa subito il liquido, anche se l'ago è piccolino. Sembra uscire e poi dipende da persona a persona. Allora, beh, Luca è tutto un liquido, Oh, Luca, le ciurina, puntura, gira vici, la boni, la cannuccia e ciuccia. Tu mi sui si mangia i civici. Ti credi che scemo che c'è punti? Allora. Tanto dissimi, molto non penso più. Ma non può mangiare più la bazzetta e un bollo, le alette di pollo, fatta la graviglia, No, non può mangiare. No, fuori non finisco. Ti ho mandato un video del fagiano che pizzica nel cazzatore le bicchieri. E lo si innanda e rimane a pressare un cazzatore. Te l'ho mandato? No. Guarda il telefono che già ce l'hai. Ti fai due risate. Fanno spararlo, no? Quel fagiano. Ti credi che era matto? Lei è andato in culo a fare un cagnolino, non un fagiano. E chi ti sa se ti sparo, vai via, lo manda via. E chi te lo picciava? Cioè, chi dà sulla dici, corri a fare cosa fa. Che tu correni lo fa già una pressa da ridendo correni, una risata mai ma ci fatto. No, non l'ho visto, grazie, non me l'hai mandato a me. Ah, sai che te lo mando, ti fai una risata. Oh Luca, mica te l'ho mandato, Luca Pugli, che su Messenger è però. Ah. Guardalo, mia. Ah, vabbè, l'ha già fatto però, ce l'hai due volte. Ti fai due risate. Intendo. Davvero? Ciao Mari. Ciao Lucio. Tu guardate sono qua. No, sto mangiando, grazie. Dopo me lo guardo. Vai, a presto. Ricorda Radio Maria, che si fa Gianni. Vabbè. Ma non rumorare, mi scappa via. Mi dice se avviene e vede a presto, vai. Per non spararlo, mi, quel fagiano, eh? Ecco. Ma senza so. E beh Giomari, la testa non sta graziano, dici che mangia un bel oggi, vero? Infatti, si è mangiato una canna d'aino, si è mangiato. Ah no, ma cadron me canuti. Boh, è ora di sinà, la mezz'ora. Tu sei più drommito di me, sì. Ma hai drommito di più di me. E allora, io mi stavo guardando i documentari. Il documentario a Rai 3, chi li mangiaro. Pensare tu, Ida. Davvero? E allora, adesso c'è domenica prossima. E invece me la bagno di ribassita, faccia due. Oh, non mi piace il ballone. Oh, la calma qui. Bisogna mettere un po' di tutto. Ah no, non mi piace, no. Poi alle notti mi ha mai dato un film di lotta greca romana, lotta libera, campione del mondo, Bravarello era. Luca, e poi? Di vigilanti di me. Mi parete a quelli che sta a spara di una cassalura. Oh yeah, che magna, vecchio, come prego, sono 7:20, ah, ancora no, ci ha mangiato Luca, sì, grazie, ma tu mangi due volte, è vero, adesso mangi le forme a casa di mamma e lì faccio la fame, di la verità, vecchio, oh, no, no, no. Due volte, una volta è buh. Ma tu sei l'onfietto. A vaga dove gambarina per un sicuro mangi di voci. Sì, sì, trucco. Mi sto mangiando un carciofo crudo, buono, mi? Con l'olio d'oliva, il sale, lo prepari. Oh yeah, con la legge, tennaro, tennaro. Giovanni, è tutto un tennaro pa' Graziano, è che è tutto una palla, Ehi, allora ti sei mangiato la buccia. Boh. E il pezzo, quando tiri le foglie, quelle che non servono, poi l'altro c'è, boh. Senti, se ti mangi mezza foglia, un pezzo a reggio ti devi mangiare. Ehi, così sto facendo la foglia tenera, là. Ehi, così è boh. E poi quando arrivi alla fine, chi c'è ancora più buono? Er meglio. Anche il tronco, se noi è legna, cioè è buono lo mattesi. Già lo so. E tu anche la mangi, grazie. Ah, un bicchierino di vino a cena, che buono. E te, Ufo, dormitaci. No, e tu dormitucci. No, io sono dormito. E allora ci ho mangiato? Ehi, tu dormitaci. Io no, sono veglia. Secondo me tu sei dormita, si sente che stai russando. Vuoi dire che non ti vedo che sei dormita? Sì, ti vedo, mi. Ma cosa stai dicendo? Il gufo me l'ha detto, mi, che sei dormita. No, dormito è gufo. Ciao, papà. Ciao, Luca. Che fine ha fatto, Graziano? Hai detto che è in ufficio. Ah, in ufficio, Sì, stanotte leggero ho mangiato due cannelloni, dai, con la ricotta e spinaci e... cosa carciofi crudi? Una banana e un arancio, boh! Già va bene, dai! No, io sono... eppure ne voglio comprare o farli, così con la risposta. Non ne abbiamo mai mangiato noi. No, mangiavamo col sugo, mi. Sì, Marina li ha fatti, ricorda spinaci. Ma cosa ha preso? Quella pasta adatta che vendono, quella rotolata? Sì, cannelloni, sì. Anch'io. E cosa ha messo nella ricotta? Ascolta che te lo faccio spiegare da lì. Cos'è, cos'è qua? Ho comprato i cannelloni, quelli al Conad. Dove vendono la pasta al forno? No, le... come che si chiama là? Vabbè, il pacco di cannelloni devi comprare. Poi ho comprato la ricotta fresca, gli spinaci surgelati, poi te li puoi prendere anche freschi, li ho scottati, ho mischiato tutto, li ho riempiti e poi li ho conditi come fai la pasta al forno, no? Sugo, besciamella, mozzarella, prosciutto, a piacere, no? Come fai la pasta al forno. Un po' scottare così, un po' bollire, là, diciamo. No, in crudo li riempi, sennò poi se li scotti ti viene anche male a riempirli. Come fai? Perché praticamente lo devi prendere a uno il cannellone e riempirli, se hai la sacca a poche puoi usare la sacca a poche. Io non ne ho, che mi si era rotta, e quindi a uno col dito li ho riempiti, capito? Ah, ecco, ho capito. E allora provo a farli anch'io, Mari. Perché non li avevo fatti mai, capito? E allora le faccio, provo questa settimana, le prendo. E così le faccio, alla Conad hai detto, così è. Sì, alla Conad, perché abbiamo guardato all'Eurospin e non ce ne sono. E allora la Conad li abbiamo presi, ho preso anche lì la ricotta fresca, perché poi la ricotta va presa fresca. E niente, ho fatto il ragù come lo faccio sempre, con la carne macinata, ci ho mischiato la besciamella, tagliato il prosciutto a pezzettini, ci ho messo anche un po' di prosciutto in mezzo alla ricotta e spinaci, lo stesso la mozzarella tagliata a pezzettini, li ho riempiti bene a uno, proprio belli pieni, e poi ho fatto uno strato di sugo e di besciamella, ci ho messo all'oro, li ho ricoperti, poi tu puoi fare gli strati che vuoi, te li sistemi come vuoi tu nella teglia. E poi ci ho messo prosciutto, mozzarella, formaggio. Come fai la pasta al forno? E sono buoni, la verità. Poi vabbè, è una cosa diversa. Sì, sì, allora le faccio. La mia figlia già è pratica, perché la pasta al forno la fa lì a casa lo stesso. Quindi su per giù è tipo così, da solo che dobbiamo aggiungere la ricotta e roba del genere. Ma ci provo, ma va bene. Te li puoi riempire anche a piacere tu i cannelloni. Io gli ho fatti ricotta e spinaci, ci ho messo anche del prosciutto. Però cosa adesso ci puoi mettere i carciofi, ci puoi mettere la carne macinata. A piacere tuo, insomma, quello che ci vuoi. Poi magari li fai la prima volta e poi ti viene un po' di fantasia. Se vi piacciono, ci puoi mettere quello che vuoi, ci puoi mettere verdure, quello che vuoi, insomma, da. Va bene, ho capito, d'accordo Marina, ti saluto che continuo a cucinare e passo la gufa a Luca, ciao! Ciao Paolo, buonanotte e buona cena, te a tutti, ciao ciao! Ciao Marina, per quello già me lo stai facendo diventare un uovo a Luca! Ciao Grazia! Ma uovo me! Allora dici che avevi finito di mangiare, dici la banana, l'arancio, Il dolce no, pensavo di dolce pure. Ah, allora eri in standby. E allora, mi lascio, metto le scarpe e mi faccio accompagnare a casa, e così preparo anche l'ariosola, la vecchia. Vabbè, vai, allora, ci devi preparare anche cosa, mamma tua. Va bene, buonanotte, a domani. Se Dio vuole ci risentiamo. saluti a tutti, anche agli ascoltori. Ciao! Ciao Grazia, ciao Paoletta, buonasera e buonanotte, ciao a domani, ciao, ciao anche a Gio Maria che sarà in ascolto, a domani, ciao. Ciao, ciao. Bippi, sentito, Gio.